rassegna stampa Europa. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. Siamo passati però dai giornali italiani a quelli europei e soprattutto dagli argomenti appunto di politica italiana e di così tratti dal mondo, per quanto, come purtroppo dico sempre, sui giornali italiani forse si parla un po' troppo poco di quello che succede fuori dai nostri confini, ma siamo passati appunto agli argomenti strettamente europei. Intanto però approfitto per rispondere a un ascoltatore che mi ricorda che il nostro capo dello Stato si chiama Napolitano. Io spesso dico napoletano perché il nostro direttore si chiama Napoletano e quindi mi sbaglio spesso e me ne scuso e cercherò di stare più attenta. Ma per quanto riguarda appunto la rassegna stampa europea, questa settimana tantissimi gli argomenti trattati. Come sempre ho cercato anche aiuto nel sito di Internazionale, nel sito di Press Europe, che anche in questo caso vi ricordo una cosa che ho già detto nelle scorse settimane: purtroppo sono finiti i finanziamenti per questo sito molto interessante, e vi invito ad andare magari sul sito e firmare la petizione perché continui a svolgere questo servizio di monitoraggio della stampa europea. È molto interessante, soprattutto in un momento in cui l'Unione Europea viene vista a volte, anche l'euro, come un nemico, invece capire, approfondire, vedere cosa succede negli altri paesi, ma con le barriere linguistiche questo non sempre è facile, visto che siamo un puzzle di più di 20 lingue. Ma partiamo da un quotidiano olandese, The Standard, che parla di una questione interessante, anche perché di lobby si è parlato molto in questi giorni anche nel nostro paese, ed è appunto un lobbista del tabacco che titola The Standard: era presidente del Comitato Etico dell'Unione Europea. Michel Petit, presidente del Comitato Etico dell'Unione Europea, incaricato di limitare l'influenza dei lobbisti, si è dimesso il 18 dicembre perché la sua posizione era diventata insostenibile a causa di un conflitto di interessi. L'anno scorso, infatti, gli eurodeputati verdi José Bové e Bart Staes hanno rivelato che durante il suo incarico come avvocato per lo studio Clifford Chance Petit ha difeso almeno due volte gli interessi della Philip Morris nel corso di alcune riunioni con la Commissione europea. Interpellata da Tre Ong lo scorso febbraio, la mediatrice europea Emily O'Reilly ha consigliato alla Commissione di sostituire Petit, definendo inammissibile il minimo sospetto di conflitto di interesse. E appunto, quante volte abbiamo sentito anche in casa nostra parlare di conflitti di interesse, e poi soprattutto di recente di lobbisti, perché avete sentito tutte le accuse mosse dal Movimento 5 Stelle ai lobbisti che influenzerebbero le decisioni del PD. In particolare questa volta erano rivolte al PD le accuse del Movimento 5 Stelle. Passiamo a un giornale del Portogallo che si chiama I, come la lettera I. Il titolo dell'articolo è Game Over, e infatti il 19 dicembre la Corte Costituzionale del Portogallo ha bocciato all'unanimità i cambiamenti del sistema pensionistico che avrebbero portato un taglio del 10% alle pensioni per i dipendenti pubblici, lasciando così un buco di 400 milioni nel bilancio del governo per il 2014. Infatti appunto questa misura del taglio del 10% avrebbe portato un risparmio di 400 milioni. Ora questa misura non può essere attuata e quindi il buco resta. Secondo l'Alto Tribunale, la volontà di tagliare la spesa pubblica non può essere considerata una priorità rispetto ai diritti acquisiti dai dipendenti pubblici durante la loro carriera lavorativa, e dunque la nuova legge è incostituzionale in quanto viola il principio di protezione. E anche in questo caso vedete che poi alla fine gli argomenti ritornano tra paesi, perché se ci pensate anche il prelievo forzoso che ci sarà sulle cosiddette pensioni d'oro in Italia, forse la Corte Costituzionale del Portogallo lo troverebbe per l'appunto incostituzionale, perché è retroattivo, perché è deciso così all'ultimo momento e perché tocca dei diritti acquisiti. E ripeto, non parlo delle pensioni d'oro, quelle da 50.000-60.000 euro al mese, ma quelle da più di 100.000 euro lordi all'anno. Lo spirito del Natale è invece il titolo di un articolo pubblicato dal Guardian, che è uno dei quotidiani più letti del Regno Unito. Ha anche tra l'altro il sito del Guardian pluripremiato, è il più letto in lingua inglese, cioè supera anche siti di quotidiani americani. In questo caso è il tema scelto dal Guardian è quella legge di cui abbiamo parlato anche nelle scorse settimane, che il premier David Cameron ha deciso di introdurre dal 1 gennaio, e che prevede che gli immigrati nel Regno Unito dall'Unione Europea dovranno risiedere nel paese per almeno 3 mesi prima di poter richiedere il sussidio sussidio di disoccupazione. Questa legge sarà esaminata entro la fine dell'anno e l'obiettivo è bloccare appunto l'accesso ai servizi sociali prima della data politicamente simbolica in cui le restrizioni per romeni e bulgari saranno eliminate nel Regno Unito. Questo articolo era corredato da una vignetta, perché appunto il titolo già era ironico in sé, lo spirito del Natale, e come vedete anche queste questioni, quella del sussidio di disoccupazione che in Italia di fatto non esiste e quella delle restrizioni all'immigrazione sono poi comuni a tanti paesi, il nostro in questo caso è il Regno Unito. Ma c'è anche sempre sull'immigrazione, ho trovato un altro articolo sul Malta Independent, un quotidiano maltese appunto, il titolo è "Le conclusioni della task force sull'immigrazione sono state approvate". Il 20 dicembre il Consiglio europeo ha approvato un piano in 38 punti per combattere l'immigrazione clandestina nell'Unione europea, altro tema naturalmente attualissimo in tutti i paesi. Questa task force era stata creata proprio dopo la tragedia di Lampedusa dello scorso 3 ottobre, quando, ricorda il Malta Independent, circa 300 migranti diretti verso l'Unione Europea persero la vita nel naufragio della loro imbarcazione al largo dell'isola. La lentezza della burocrazia dell'Unione Europea sta irritando Malta, che ha chiesto a Bruxelles un aiuto tempestivo per combattere il flusso di clandestini che approdano sulle coste dell'isola. E anche in questo caso sappiamo che questo appello a un ruolo più importante dell'Unione Europea sulla questione dell'immigrazione clandestina è stato chiesto da molte parti, anche dal nostro ministro per l'integrazione Cécile Kyenge proprio pochi giorni fa. Un interessante articolo anche qui da un quotidiano olandese, The Volkskrant, si intitola "L'introvabile esercito europeo". E infatti alla metà di dicembre si è riunito appunto il Consiglio europeo, che sapete è un po' il governo dell'Unione europea, e scrive The Volkskrant: "Meglio tardi che mai". Questa è la reazione suscitata dal Consiglio europeo del 19-20 dicembre, nel quale per la prima volta dopo molto tempo i capi di Stato e di governo hanno discusso della politica della sicurezza e la difesa comune, discussioni quanto mai opportune. E il tema è appunto quello di creare, si vedrà se ci si riuscirà, un esercito europeo. Se volete, è una questione che in qualche modo si lega al fatto di che l'Unione Europea dovrebbe avere un maggior ruolo nel controllo, per esempio, dell'immigrazione clandestina. Ma sempre sul tema dell'Europa, su come governarla, su come gestirla, e sappiamo che tra l'altro nel 2014 ci attendono le elezioni europee, vi segnalo ancora un articolo da un quotidiano olandese, questa volta l'RNC Handelsblad di Amsterdam. Il titolo si chiama "Piantiamola con gli Stati Uniti d'Europa", e Paul Schäffer scrive che se l'Unione Europea vuole sopravvivere dovrà fare chiarezza sui propri obiettivi. Il punto d'arrivo non deve essere una federazione, ma un'unione costituzionale ben delimitata. E vi leggo la prima parte. Il 22 maggio del 2014 si svolgeranno le prossime elezioni europee, che promettono di trasformarsi in una resa dei conti. Non è affatto escluso infatti che il populismo di sinistra e di destra, che non vuole che l'Europa si allarghi sempre più, si affermi come una forza influente nel Parlamento europeo. Se i politici dei partiti di centro non prospetteranno chiaramente la loro concezione di Europa per il futuro, il populismo si potrebbe rivelare l'unica alternativa politica. Ecco quattro pilastri sui quali potrebbe poggiarsi una diversa configurazione dell'Europa. Questi quattro pilastri sono, secondo Paul Schäffer, l'unificazione europea si è basata per molto tempo sulle frontiere interne, ma nei prossimi decenni si concentrerà sempre più sulle frontiere esterne. Poi, per quanto riguarda lo sguardo sull'estero, ci deve essere una maggiore attenzione all'indice dello sviluppo umano. Poi c'è naturalmente la questione del libero scambio delle merci, anche in questo caso non sempre tutto fila liscio come voluto dai padri costituenti, e poi c'è la questione delle regioni periferiche, come citiamone una su tutte, la Turchia, che tra l'altro in questo momento i negoziati per l'entrata della Turchia nell'Unione Europea sono interrotti, ma pensiamo all'Ucraina con tutto quello che è successo e sta succedendo ancora adesso, perché l'Ucraina è stretta tra la Russia e l'Unione Europea, e ci sono pressioni politiche molto forti in questo momento perché prevalga l'avvicinamento alla Russia. Veniamo a un quotidiano, questa volta di Bucarest, il Dilemma Vece, e in questo caso ancora il tema europeo e le prospettive dell'Unione Europea. L'Europa brilla sotto un cielo nero, così riassume il suo parere il quotidiano. La vita in Europa è ancora migliore che nel resto del mondo, ma alle elezioni del 2014 i politici saranno tentati di puntare sullo scetticismo piuttosto che sui risultati ottenuti dall'Unione Europea. E la foto, tra l'altro, che guardavo questo articolo, è bellissima perché è una foto notturna dell'Europa, e da qui parte appunto l'articolo. Vi leggo le prime righe. È interessante osservare le foto dell'Europa scattate di notte dal satellite. Le macchie bianche luminose indicano chiaramente le zone più sviluppate: il Benelux, l'area parigina, il bacino della Ruhr in Germania e la valle del Reno. Anche la pianura del Po brilla, come Roma, i suoi dintorni e il golfo di Napoli. Il Regno Unito, Madrid, Barcellona e la costa portoghese sono inondate di luce. E con questa immagine vi lascio, perché purtroppo, come sempre, il tempo è tiranno. Ci risentiamo però domani mattina per la rassegna stampa dei quotidiani italiani. Un buon sabato a tutti da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.